Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nel 1972, con la cosiddetta legge Marcora, viene disciplinata in Italia l'obiezione di coscienza come alternativa al servizio militare allora obbligatorio, la legge fondativa del Servizio Civile Nazionale del 2001. Una legge che all'articolo 1 sancisce che il Servizio Civile Nazionale è finalizzato a concorrere in alternativa al servizio militare obbligatorio, poi abolito dal 1 gennaio 2005, alla difesa della patria con mezzi e attività non militari. Al tempo stesso, al servizio civile viene attribuito il compito di contribuire allo sviluppo di virtù civili e di propositi propri del mondo del volontariato e della solidarietà. La domanda che ci poniamo questa sera è in che misura il servizio civile possa contribuire a creare occupazione. In sostanza, esiste una correlazione tra servizio civile e lavoro? L'occasione per riflettere su questo tema ci viene offerta dalla pubblicazione di un agile volume pubblicato da Franco Angeli dal titolo Sviluppare valore nell'esperienza sul campo, gli effetti del servizio civile in Toscana, curato da Valerio Martinelli e Alessandro Zuti. Valerio Martinelli è tra l'altro segretario responsabile dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Toscana e assessore alle attività produttive e al lavoro presso il comune di Montopoli in Valdarno. Buonasera, dottor Martinelli, e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, ecco quanto scrive il professor Luciano Monti, docente di politiche dell'Unione Europea alla LUIS, nella presentazione del volume. Nell'incipit, gli autori del libro richiamano un passo di Papa Francesco. Quando non si lavora, o si lavora male, si lavora poco o si lavora troppo, è la democrazia che entra in crisi. È tutto il patto sociale. Se nel secolo scorso erano i lavoratori proletari ad animare la lotta di classe, nell'Italia del XXI secolo i nuovi poveri di lavoro sono i giovani. Non una classe, ma una generazione. I numeri parlano chiaro. A fine 2018 oltre 3 milioni di giovani under 35 sono NEET, usciti dal mondo della scuola e non impegnati in un percorso di formazione professionale o in attività lavorative. Di questi, oltre 1,7 milioni sono donne. A riprova che la mancata parità di genere non è solo nel mercato del lavoro, ma anche fuori. Disattesi tutti i target fissati da Europa 2020. Il tasso di occupazione femminile in talune regioni italiane è drammatico. Meno di 3 donne su 10 risultavano occupate in Campania e in Sicilia nel 2018. Allora, dottor Martinelli, se questi sono i dati, è interessante che ci spieghi a quali risultati sta conducendo l'esperienza del servizio civile in Toscana dal punto di vista delle opportunità di creare lavoro e se e in che misura tale modello possa essere esportato a livello nazionale. Certo, va detto in primo luogo che il servizio civile, e di nuovo grazie per l'invito a tutti e buonasera a tutti gli ascoltatori, è un'esperienza di una politica particolare, se vogliamo un unicum, perché al contempo unisce un ruolo di, se vogliamo, ammortizzatore sociale, un ruolo sociale comunque, e di politica attiva del lavoro. Questo è un po' in qualche modo lo spirito della ricerca nel sottolineare questo ruolo di politica attiva del lavoro, perché il servizio civile non è un sussidio, questo è importante sottolinearlo, ma invece offre delle occasioni di simil lavoro, quindi degli assaggi, se vogliamo, del mondo del lavoro, quindi dando degli orari, dando delle responsabilità, e quindi al contempo riesce ad offrire un budget, un po' di risorse economiche a tutti i fruitori e riesce a far maturare delle esperienze e delle competenze. Questo è molto importante perché abbiamo sentito anche un brano tratto dalla presentazione del professor Monti alla ricerca e effettivamente il problema dei NEET, cioè di quei giovani under 35 che non si impegnano nel lavoro, nello studio o nemmeno in un tirocinio, è un problema molto grave nel nostro paese ed è endemico. Si parla di numeri molto grandi, più di 2 milioni e mezzo, quasi 3 milioni. Quindi in questo caso il servizio civile riesce a far attivare questi giovani e devo dire ha dei risultati, a differenza di tante altre politiche che si la volta si raccontano o si millantano. Nella nostra ricerca i dati sono molto chiari ed è una ricerca fra l'altro di carattere controfattuale, l'analisi controfattuale quindi scientificamente comprovata, se così si può dire, cioè che la maggior parte di tutti i fruitori attiva un tirocinio immediatamente dopo aver svolto l'esperienza del servizio civile, quindi c'è un'alta probabilità, un favore, diciamo, una facilitazione all'attivazione dei tirocini. E cosa molto importante, visto che anche nella presentazione del professor Monti si menzionava, specialmente nei riguardi del genere femminile, quindi delle donne, c'è un 18% in più delle giovani fruitrici di avere un lavoro successivamente a 6 mesi e a 18 mesi dallo svolgimento dell'esperienza del servizio civile rispetto alle loro competitor che invece non l'hanno svolto. Ottimo, allora questo l'abbiamo ben compreso. Ecco, una questione: il servizio civile è stato istituito nel nostro paese nel 2001 e ha avuto una crescente popolarità da parte dei giovani. Ecco, ma a quali elementi si deve la crescita nel tempo delle domande di adesione? Allora, sicuramente c'è stata un'evoluzione dell'approccio rispetto a questa policy, a questa politica, perché in particolare in origine e poi successivamente qualche retaggio ce l'abbiamo anche oggi, si cercava in qualche modo di relegare l'esperienza del servizio civile a un qualche cosa, ok, di simpatico, di divertente, ma non di tanto utile, qualcosa da mantenere, da conservare così com'era, ma non da promuovere. Devo dire con l'evoluzione e con l'attenzione che c'è stata anche dalle istituzioni dell'Unione Europea, che su questo hanno fatto arrivare diversi finanziamenti e diverse risorse, specialmente dal FESR, poi fra l'altro delegando la gestione da parte delle regioni d'Italia, questa è stata un'attenzione invece migliorata, evoluta. Si è cercato di far capire come questa politica in realtà aveva anche un ruolo molto importante, non solo dal punto di vista di, come posso dire, è nato il servizio civile, si è letto e si è detto poco fa come alternativa al servizio militare, un privilegio concesso agli obiettori di coscienza. Tra l'altro si sanzionavano anche perché quelli che erano obiettori di coscienza, il periodo di servizio era più lungo se facevi il servizio civile rispetto al servizio militare. Un po' di questo retaggio c'è ancora e l'abbiamo vissuto nel tempo, però fortunatamente questa attenzione delle istituzioni comunitarie, la capacità delle regioni di organizzarsi ha fatto sì di dare una nuova pubblicità e di avere un nuovo ammontare di risorse. Questo significa che mettendo più soldi, parlandone meglio, diversi giovani si sono avvicinati e ci dobbiamo augurare che si avvicinino sempre di più. Però, ecco, sì, anche per parlarne meglio forse va spiegato che il servizio civile non è il volontariato, cioè stiamo parlando di due questioni diverse. Assolutamente, il servizio civile senz'altro può essere una forma di avvicinamento al volontariato così come al lavoro, a noi è interessata particolarmente l'avvicinamento al mondo del lavoro, ma in qualche modo è appunto questa forma di laboratorio di cultura civica, noi l'abbiamo definito così, cioè un'occasione in cui i giovani si possono attivare, possono conoscere, possono uscire dal guscio, perché sembra una cosa banale, ma io ho 26 anni, molti dei miei coetanei, secondo le statistiche, quasi 3 milioni sono a casa a non far niente, né a studiare, né a lavorare, né attivi nella vita civile. Quindi questo è evidente che possa essere una buona piattaforma per farli impegnare, che non è perfetta, va migliorata. Fra l'altro una grande criticità che sottolineiamo nella ricerca con l'altro autore Alessandro Zuti, che ringrazio perché è stato veramente fondamentale come apporto, è che abbiamo visto che c'è un problema dal punto di vista dei tassi di abbandono, cioè tanti giovani si iscrivono e poi lasciano, quindi probabilmente deve essere fatto qualcosa per cercare di certificare anche delle competenze trasversali che questi giovani maturano durante l'esperienza del servizio civile. Però ecco, è un veicolo e questa è la sua grande funzione. Ecco, un veicolo, l'ultima questione, è un veicolo che già dall'esperienza condotta in Toscana può far immaginare su quali sbocchi professionali normalmente ci si dirige attraverso il servizio civile oppure è una casistica non significativa? No, noi crediamo che sia molto significativa da questo punto di vista ed è confortata dalle statistiche, perché di fatto la cosa molto interessante dell'evoluzione del servizio civile è che se classicamente, cioè tradizionalmente, era anche quello relegato a una dimensione squisitamente pubblica, cioè andare a fare il servizio civile solo nei comuni e nelle amministrazioni, ha avuto sempre un ruolo più importante, quello del servizio civile svolto nel terzo settore. Questo è fondamentale perché il servizio civile anche qui ha mostrato una sua natura complessa. Da una parte la possibilità, per esempio, a giovani studenti universitari, dà questa possibilità di impegnarsi e di avere anche una piccola risorsa economica per creare delle relazioni, ma dall'altra è anche un veicolo per chi ha difficoltà proprio ad entrare nel mondo del lavoro. Studenti, cioè giovani, sì, che non sono nemmeno studenti o lavoratori, che in maniera diversa avrebbero una grande difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, tramite il servizio civile hanno un assaggio, possono creare relazioni, possono approfittare di quello che è il mondo del lavoro e cercare di capire le sfide e le opportunità e cercano di muoversi in quel mondo lì. Quindi è proprio per questo che è un unicum. Ok, l'ultima domanda, abbiamo poco più di un minuto, dottor Martinelli, e ovviamente ci si colloca all'interno anche di quello che avviene in Europa, dove esistono da anni forme di servizio civile per i giovani. Assolutamente. Con storie e tradizioni diverse, come voi scrivete, certo, nel libro. Certo, il quadro è quello della cultura civica e dell'attivazione dei giovani a livello europeo, e da questo è stata gran parte della linfa vitale che ha ricevuto questa politica, però io credo sia molto importante, anche in un'ottica di favorire maggiormente l'integrazione europea, di stimolare ed avere maggiore attenzione per questa politica, che può essere ottimizzata ma che ha ancora tante potenzialità che sono inespresse in questa direzione e in altre. Grazie, allora grazie ancora per essere stato con noi, Valerio Martinelli. Lo ricordo che ha scritto insieme ad Alessandro Zuti questo volume pubblicato da Franco Angeli, in cui ci racconta appunto l'esperienza del servizio civile in Toscana. Il titolo è, lo ricordo, Sviluppare valore nell'esperienza sul campo. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia e a Luca Cremonese in redazione. Buona serata a tutti, cari ascoltatori. Alla settimana prossima.